мой, стата тинд, я предокер, тиво, афорибел, риски лапел, синда мамат, стата тинд, я предокер. Va bene, mamma, non ti preoccupare. Sì, sto attento, li tengo aperti gli occhi. Adesso però vattene. No, te ne devi andare, mamma, perché io ho da fare. È una cosa troppo importante e pericolosa, non te lo posso dire. Gentile da fevo, mamma, non te lo posso spiegare. E poi io a casa non torno e non devo tornare. Madon, è a tanto, ci vado. Oh, ma quante volte devo parlare? Te l'ho detto un sacco di volte. Se papà o qualcun altro ti dicono qualcosa, tu devi dire che non ne sai niente. Di che non mi vedi da un sacco di tempo. Madon, come mai? Oh, mamma, te ne devi andare, non te lo posso dire. Vattene, è pericoloso, vattene, ho da fare. Capo, capo, capo, capo. Che c'è? Le truppe sono in città. Città, città. Sono tanti? Tanti, tantissimi. Siete pronti? Pronti, prontissimi. A posto. Wanyu, è arrivato il momento di combattere. Dobbiamo lottare fino alla morte contro questi, perché a noi ci chiamano pastori e cafoni. E ladroni! E ricchioni! Ricchioni? Sì, sì, a lui, capo! A me! Scemo di guerra! Vedi che ti spacca la faccia, capì? Ciro, no, ciccio, noi qua mettiamo le cose per bene in chiaro? O io con quello? Non voglio combattere proprio più! Sì, tanto il piacere è tutto il mio, ehi! Calma, Wanyu. Io ho detto che è arrivato il momento di combattere, ma non fra di noi. Noi dobbiamo lottare contro questi che ci chiamano pastori, ladroni, cafoni, ricchioni, ancora! Basta! Ci chiamassero come vogliono loro. Noi abbiamo il dovere di vincere. Dobbiamo dimostrare che la gente di questa terra disgraziata vale quanto tutta l'altra gente del resto della terra. Chiaro? Sì, sì, vabbè, ma che c'entra? Se è per questo, a me mi trovi sempre d'accordo. Pure a me! E allora ricordatevi il giuramento. Primo, cercate di colpire innanzitutto gli ufficiali. Sì, che la truppa senza capo... Io un falco senza le ali. Secondo, scannate e massacrate feriti e prigionieri. Nel duello corpo a corpo i soldati disarmati... Fuggiranno spaventati. Volentieri. Terzo, Wanyu, ricordatevi, è meglio morire in piedi che continuare a vivere così, in ginocchio. Chiaro? Chiaro! Chiarissimo! E ripeti? Sì, è facile, capo. Allora, è meglio morire... Oh, scusa, capo, ma è meglio vivere di morire, no? Shh! Basta parlare e basta scherzare. Preparatevi all'attacco. Wanyu, voglio un assalto furibondo. Nuovi a mettere a ferro a fuoco tutto quello che troviamo davanti, senza pietà di niente e di nessuno. Wanyu, siete pronti? Aiuto! Aiuto, Wanyu! Aiuto, Wanyu! Mi hanno panchiato, Wanyu! Scappate, è un'imboscata, Wanyu! Lassatemi! Lassatemi, un famone! Trate durdurre! Aiuto! Aiuto, Wanyu! Scappate, è un'imboscata, Wanyu! Volta bandiera, cancia colore! Lassatemi! Aiuto! Aiuto, Wanyu! Lassatemi! Lassatemi, un famone! Primo, cercate di colpire innanzitutto gli ufficiali. Che la truppa senza capo... Porca puttana! Uè ma, hai visto che fine ho fatto? Mi hanno acchiappato, mamma. Mi hanno sbattuto in galera. Hai visto? A te ti piaceva dire in giro che tuo figlio faceva il delinquente, il capobanda, non tiene bisogno della tua protezione, no? Te l'avevo detto io di stare zitta. E questo è il risultato, mamma, questo. Mi hanno acchiappato. Teniva ragione tu, ma... Figlio mio, state attinte, gli apri d'occhi, tio, a favore belle, rischi la pelle, sin da mamma, state attinte, gli apri d'occhi! Io li tenevo aperti gli occhi, mamma, io non avevo paura per me, io avevo paura per te e per Caterina, e infatti io ho visto tutto, pure troppo ho visto, perché io non sono un delinquente. E non sono nemmeno un politico, io sono un uomo. È un uomo, non si tratta così. No, vedete qua, mi avete lasciato senza bere da un sacco di tempo. E io mo c'ho sete e volesse bere l'acqua. Acqua! Acqua! Mi trattano come un delinquente solo perché io combattevo per il Borbone. E loro dove stavano? Questi che facevano, ma? Te lo dico io. Questi qua comandavano. Perché il problema di questo paese è sempre lo stesso. Chi comanda non suda. E chi suda non comanderà mai. Ma secondo te io combattevo per mantenere la corona in capo a un re che a noi ci affamava? Io, proprio io. A me non me ne fregava niente del Borbone, mamma. A me non me ne fregava niente di nessuno. Io volevo solamente salvare la pelle, senza tradire la povera gente, però. Senza tradire a nessuno proprio. Soy brigante e no piemontese, la casa e la chiesa vorrei revutare. Soy brigante e per questo paese pozza morire accise per la libertà. Nu cafone, nu miezzi ignorante, casotto padrone non vuole più sta, siamo nati senza libertà, e sparamo pilla guadagna, siamo fatti sta brutta misura che manca in due cielo riuscimmo a cacciare. I son nomi che da piccirill fatica sta terra senza dignità, so in una mano chi odora de grana, no pane che te non sapora pietà. So in una voce che grida vendetta, de giorno e de notte la sente cantà, che sta guerra in una barca che va, goppo sangue de chi non si sa, né governo un famuno, né ladro burbuna, nessuna ci può aiutare. 11 maggio 1860, Garibaldi sbarca a Marsala. 6 giugno 60, conquista Palermo e si proclama dittatore della Sicilia. Aiuto mamma, aiuto, aiuto mamma, aiuto mamma, aiuto. Aiuto la gamba non sparate, vi prego non sparate, sono amico, sono nemico, sono ferito, sono innocuo, bam bam bam, aiuto. Agosto 1860, Garibaldi sbarca in Calabria. 6 settembre, conquista Napoli, capitale del regno borbonico. 4 paesi rasi al suolo, 1 milione di caduti sul campo. Sud conquistato. Lucano? Lucana. Chi ste Lucana? I son lo padrone. Bam! Bam bam bam bam! Gesù d'amore accesa, io non t'avesse mai offesa. Gesù d'amore accesa, io non voglio essere uccisa. Bam! Gesù d'amore accesa, non t'avesse mai offesa. Gesù d'amore accesa, io non voglio essere uccisa! Bam bam bam! Bam bam! Viva l'Italia! No! Viva il re! Viva Garibaldi! Viva chi volete voi! Bam bam bam bam! Bam! Dan dan dan dan dan dan dan bam bam bam bam! Dan dan dan dan dan dan bam bam bam bam bam bam! Dan dan dan dan dan! Bam bam bam bam! Settembre 1860, il governo centrale piemontese dichiara nemici della patria tutti i giovani, renitenti, resistenti e indifferenti al nuovo Stato italiano. Febbraio 61, vecchi soldati sbandati e giovani non ancora presentatisi al servizio di leva verranno rastrellati e immediatamente fucilati. Cucù! A ciappelle! Io cavo te nascondei, eh? Brave! Brave il furbon! Bourbon, non so Bourbon, so pugliese, marescià, non c'entra niente che i Bourbon. Tess, levati in pe. Eh? Levati i peli? E che peli mi devo levare? A malapena mi cresce la barba. Tess, levati in pe! Levati in pe, levati in pe. L'avete i piedi! Sì, mo, ho capito, scusate, maresciallo, quello è che io sono un contadino. Contadina! Sì, non vi arrabbiate, contadino, uno che sta in mezzo alla terra. Tarun! Bravo, è uno di quelli, bravo, sì. Allora, siccome sto sempre in mezzo alla terra... Safet! C'hai fretta? Scusate, non lo sapevo che avevate fretta. Safet, li denter! No, che dente dente? Ah, ti avete visto la mano che cerca... No, no, no, non sto cercando un dente, no, sto cercando un carlino. Careino! Carina, è la tua cuseina. Bravo, anche noi da queste parti qua in mezzo alla campagna i carlini, i soldini, li mettiamo sotto i cuscini. A chi le trobe? Che rubete rubete? Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, non c'ho mica l'età per rubare io, no. La verità, maresciallo, me l'ha detto mio nonno, sì. Sono un bambino io. Un bambino? Sì, sì, non vi arrabbiate. Un bambein, piculein, sì, puverein, sì, contadein. Un lurido e schifoso contadino, sì, hai capito bene. Ma mo ti faccio vedere io che cosa ti combina un contadino che sa scucciato veramente da sta civiltà. Sono i briganti. E per questo paese possa morire acciso per la libertà. Nuca fone, non mi è ignorante, che sotto padrone non vuole più sta, siamo nati senza libertà, e sparamma per la guadagnà, siamo fatti una brutta misura, che manchi in tu cielo riuscimmo a cacciare. Guagnù, cercate di colpire innanzitutto gli ufficiali, che la truppa senza capo come questo... Sono un falco senza le ali. Scannate e massacrate feriti e prigionieri. Nel duello corpo a corpo i soldati disarmati fuggiranno spaventati. E volentieri. Non abbiate compassione di una testa a penzoloni. Chi ci cerca non è tipo che dà peso alle emozioni. Siamo nati senza libertà. E sparam, pilla guadagnà. Siamo fatti una brutta misura. Che manchi in tu cielo riuscimmo a cacciare. Guagnù, evitate spacconate della loro militanza. Attaccate solamente quando siete in maggioranza. Appostatevi di notte, appostatevi di giorno. State attenti sempre intorno. Con lo schioppo nella mano, con lo schioppo nella testa. Per difendere un compagno siete pronti a dare la testa. Siete pronti a dare il cuore per combattere il dovere. Il dovere di chi vuole che il potere resti uguale. Aiuto, mamma. Uè, ma... Mi gira la testa. Non vedo più niente, porca puttana. Aiutami, mamma. Lo so. Mi sono fatto prendere la mano. Teneva ragione tu, mamma. Lo so, e poi sono caduto come uno scemo. Lo so, teneva ragione tu. Io non posso fare l'eroe. Tengo la pressione troppo bassa. Non è questione d'eroe qua. Aspetta. Tu non sai come mi hanno preso a me, mamma. Io non sono prigioniero di guerra. Io sono prigioniero della pressione, ma... prigioniero depressivo. Io stavo a cavallo, stavo combattendo. Poi sotto il sole, bello e buono, mi è uscito il sangue dal naso. Io credevo che mi avevano ferito. E invece no, si è annebbiata la vista. E sono svenuto. Non mi ricordo niente. Mi hanno sbattuto qua dentro, in sta galera. Per un calo di pressione durante una battaglia. Se no io, a me non mi prendevano, io combattevo, mamma. Io volevo vendetta, tenevo il sangue agli occhi, tenevo. Ma non per quello che dici tu, non perché sono un delinquente. Io tengo il veleno nel cuore. Io ancora oggi mangio e mangio veleno. Ma tu non lo sai perché. Stavo nella macchia, è vero, ma non ci stavo tranquillo. Volevo ritornare a casa, libero, come una persona normale. Ma c'è te credi che stavo per piacere nella macchia? Nella macchia per piacere non ne trovi uno, mamma. Volevo ritornare a casa, è vero. E intanto come facevo? Questi qua mi cercavano. Renitente alla leva. Io manco lo sapevo che mi dovevo presentare. Qua sono arrivate prima le truppe e poi i banditori. E poi che facevo? Promettevo fedeltà a chi le promesse le fa e le disfa a suo piacimento? No, la promessa è un debito, mamma. Ma in questo paese qua, i debiti non li vuole pagare nessuno. E allora io aspettavo. Ero costretto a stare nel bosco. Aspettavo che si calmasse il vento. Perché qua... Qua cambiano i venti, cambiano le bandiere, ma il vento che soffia è sempre lo stesso. A me mi stavano cercando, io lo sapevo pure. E un giorno infatti mi sono venuti a cercare a casa. Non c'era nessuno, solo Caterina mia. Arrivarono a cavallo un capitano e 3 gendarmi. Mi sfondarono la porta, perché Caterina non rispondeva. Teneva paura, teneva. Poi la trovarono, la portarono strisciando per i capelli dal capitano. Uno la teneva dai capelli, due la tenevano dalle braccia. Quello, come la vide, subito si mise a ridere. Poi la presero, le stracciarono i vestiti di dosso, la sbatterono per terra, si buttarono sopra e me l'hanno rovinata, mamma. Me l'hanno rovinata per sempre! Complimenti, è stata bravissima. Complimenti di cuore. Sì, davvero, complimenti. Che culo! No, volevo dire che culo che l'hai avuto a fare parte del gruppo. Sì, anch'io. Beh, peccato, mi sono stato l'ultimo. Beh, però almeno così non c'è fretta, né? Non c'era fretta. Ho fatto un po' di fretta. Shura, ma perché fa quella faccia? Eh? Ho capito. L'è triste? Guardi, Shura, io giuro non ho parole. Nemmeno lei, però. L'ho capito perché l'è triste, sa? L'è perché non sono stato un campione, vero? Savutami, non è colpa mia. Pensi, è il soprannome della mia famiglia, le micia corta. Sì, giuro, tota dinamite con la micia cortissima. E poi per me l'era anche la prima volta, sa? Posso sempre migliorare. No. Sa cosa le dico, signora? Shura, se io trovassi un'altra come lei, quasi quasi mi sposerei qui. No, dico un'altra non per lei, perché mia mamma ha una così, non me la fa prendere mica. Savutami, non è colpa mia. Pensi, mia mamma, me lo ricordo, diceva sempre prima di partire, la nuora che deve essere verginella. Ah, per me andrebbe benissimo anche lei, purché non faccia quella faccia però. Giura, l'era la prima volta per me. Potevo rinunciare. Pota. Anzi, la prima volta bisogna festeggiare. E poi, Shura, noi altri l'avevamo da essere allegri e contenti. Ma l'hai visto che bel lavoro l'hai fatto, Garibaldi? Adesso è il Sintuccioni. È il Simon Pople. Caterina. Ehi. Io sono amore mio. E dai, non ci pensare. Tanto che ci puoi fare. Non ti preoccupare, Caterina. Adesso devo stare qua io. Sei sempre io, amore mio. Non ti preoccupare. Chiudi gli occhi. Ti devi riposare. Pure io. Che c'è? Non riesci a dormire? E conta le pecorelle, Caterina. Conta le pecorelle meridionali. Quante siamo? Dai. Conta le pecorelle, amore mio. Così ci addormentiamo. Eh? Ci riposiamo. E magari sogniamo, Caterì. Conta le pecorelle, dai. Sembra povero. Conta, Caterina. Non si mastete. D'indasta loto. A ma sembra abbatete. Questa lotta è un brutto cavuto, per non vorrete la vita è fenuta. Dammi la mano, Caterina, dammi la mano. Chi sta buono, salta giù da quella nuvola. Non creda la malena. Salta, salta. Chi sta sazia, non creda la fame. Caterina. Chi sta buono. Hai visto? Non creda la dove siamo male. Capitato, amore mio? Chi sta sazio, non creda la sentito che odore. E guarda che colore. Scancellato. Non ci sono mai venuto, amore. Dalla società. Per noi, poveretti. È bellissimo. Pietà, gesta. Senti. Senti questa musica. Sta nudendo tanto antico. Magnate la scorcia, sparagli la mani. E adesso balla muro. La mollica e Ciccio salta su. Che adesso e Caterina vola e non ritornerà mai più. La mollica della mano. Ha avuto paura, amore. E al lume dei candele. Guarda qua, due fiori. Ti voglio sposare, amore mio. Wanyu, io mi sposo a Caterina. Madonna, veramente c'è bella notizia. Rocco, vine, fuce, stai una novità. C'è Caterina, sanno sposare. Un momento, non andiamo di fretta. Sembra una cosa all'improvviso, dobbiamo fare. Io, Caterina, scusa se interrompo. Io, che cosa devo fare? E che puoi fare? Non incominciare, perché io devo fare il compare. Allora puzza di chi ti è morto, non sai nemmeno firmare. Wanyu, sempre a litigare, non vi dovete preoccupare. Vogliamo due testimoni, chiaro? Come i signori noi ci sposiamo, è vero Caterì? Perché sta vita è breve, sì, ma noi ce la godiamo, amore mio. Non entrate, se siete contrari, non facete sempre come noi. Se siete contrari, aspettate, non facete così. Ciao Federico. Oh Gabri, ciao. Ci vediamo dopo. Ciao, vado, mi sposo e torno. Ciao. Sì, amore, non ti preoccupare, non riuscire a sposare questo. Sei tranquillo, non preoccupare. Fratelli! Benvenuti alla celebrazione. Vuoi tu, Caterina, prendere sotto... Ciccio, scusate, prendere sotto la tua protezione? Che stolto. E promettere di amare, rispettare ed onorare fino al giorno in cui ti sarà vicina la qui presente sposa, la signorina Grimaldi, Caterina. Vuole, Don Antò, io sto qua fuori, mi senti? Vuole, anche di più, no? Anche di più. Oh, ti chiami Ciccio, tu? Comunque vuole, Don Antò, no? Vuole. Tu lo puoi dire, no? Tu lo puoi dire. Wanyu, non vi fate sentire. Fratelli, benvenuti al matrimonio. Vuoi tu, Grimaldi Caterina, prendere come compagno e promettere di amare, rispettare ed onorare fino al giorno in cui ti sarà vicino il qui presente sposo, il signor Ciccio Savino? Vuole anche di più, Tarantona, no? Ti chiamo Caterina, tu, no? Ti chiamo Caterina, tu, no? Wanyu, non fate i bambini, oh! Fratelli, silenzio. Dio vi conceda la pace ed una vita felice, lontana dalla tentazione feroce e dalle mille forme a cui il maligno dà voce. Come questa guerra traditrice, dove con la scusa dell'unità liberatrice si ammazza la povera gente infelice e si tolgono i beni a noi, poveretti del clero, che ne abbiamo un bisogno vero, per intercedere presso il divino ministero, però, per la salvezza delle anime vostre, davvero. Quindi guai ad una vita in comune con i liberali, mai, amici della religione e dei fratelli, a noi uguali. Amen. Oh, ha sentito il previto ha detto amen, amen, l'amen, hai capito? C'è ste dice, questa qua, Caterina, tiene due men, hai capito? Due men. Due men, tiene, due men. Sì, come no, tre men ha detto che tiene, sì, tre men. Sì, tre menda. Sarà la punizione di Dio a chi osa toccare il bene mio. Oh, Don Antò, è sempre a gridare stai, basta. Tanto da capo mi hai fatto, mo. Facci una fotografia, dai! Oh, oh, oh, aspetta, tanto! Voglio stare pure io! Il rosso devi schiacciare, ok? Ma ti dico via! Ma ti dico via! Oh, sto bene con questo taglio, Caterina, sto bene? Ok, vai! Via! Donato! Signora, arrivo! Stavo preparando l'aperitivo! Sì, ha chiamato! Vado subito a vedere chi ha suonato! Certo! Sciululi, sciulula! Ecco qui, ecco qua! Signora! Che emozione, signora! Il governatore piemontese e il generale genovese! Sì, è vero, scusi, li ho lasciati fuori! Prego, governatore! Prego, generale! Sì, sì, da questa parte... Da questa parete della sala vi dovete accomodare, sì, sì, qui, qui, ma che bel cagnolino, ai, ai, ai, ai, arrivo subito, marchese, che burbero, quante pretese, signora, io sono pronto, se voi ospiti intanto, sì, ciululi, ciulula, governatore, vuole sentire? Sì, aperitivo locale, ciululi, ciulula, governatore, generale, scusi, scusi, mi perdoni, lei vuole provare? Sì, attento a non esagerare, vino che dà la testa, questo c'è, prego, signora. Che emozione, signora! Ho sentito suonare! Vado subito a vedere se stanno per arrivare! Sì, signora! Signora, che emozione! Li sento salire! Li vedo salire! Hai visto, Caterì? Il palazzo più bello. Un palazzo da re. Per un giorno da stella e una vita con te. Aspettami qua, amore. Vado a salutare gli invitati. Voilà, governatore! Ma che bella tavolata! Auguri! Auguri me! Grazie! Generale, auguri belin! Grazie! Madame! Madama! Madammela! Rocco, allora, questa signora qua è nobile. Non me la mettere in imbarazzo, eh? Hai visto? Hai visto che bel palazzone? Palazzone? No, governatore, questo qua si chiama Palazzo Ducale, vero? O Palazzo Ducaz! Rocco, non la mettere in imbarazzo! È di Don Claudio il palazzo, governatore. Il marito della signora, un grande liberale, velina. Da una parte, generale, dall'altra noi ci ha dato un sacco di carline per fare la guerra. Anzi, vi dava dei liberali. Tenevo paura di perdere la terra, che senza preoccupazione già le aveva garantito il Borbone. Hai capito, ne? Capito, ne? Capito, ne? E che vuol dire? Hey, ho capito io, un capatone! Rocco, ancora! Ognù! Governatore, un sacco di signori come Don Claudio prima gridavano «Viva Borbone!» Poi hanno visto Garibaldi e hanno voltato bandiera «Viva la nazione!» Voi li avrete creduti liberali, ma a questi qua interessava solo mantenere il potere. Cosa dici, Belè? La gente voleva Garibaldi lo stesso, voleva nelle promesse, generale. Le terre, ne? Nella terra manco cieli siamo avuti. Giusto! Noi siamo stati mazziati e cornuti! A stato certo non hanno avuto! Signora, non vi nervosite però, Cosa dite, ne? Ci arrivavano un sacco di lettere che chiedevano di annettere il sud del resto d'Italia e di fare di furia. Governatore, annettere però, non sconnettere. Come si dice? Reprettere. No! Oh, signore, mica ho detto la parolaccia, mo. Che faccia, che faccia. Il governo centrale è sempre comprensivo nei confronti dei signori, perché li vuole tutti uniti, ma per il bene vostro, dei lavoratori. Infatti, governatore, erano tutti uniti. Contro a noi, però. Non vi dicevano la verità, tanto voi stavate a Torino. Che cosa ne sapevate? A noi il Borbone, generale, ci ha dato qualche carlino, è vero, ma voi mica lo cacciavate. A Napoli, a Bari, a Palermo, nessuno diceva la verità, per questo è scoppiato l'inferno. La chiesa, i signori e i vecchi amministratori aizzavano il popolo alla rivolta, e poi dentro i palazzi gridavano sopra la carta: il sud vuole essere annesso, mandateci le truppe. È tutta la storia che sappiamo che vedere presto. Come si dice, signora cara, com'è che dite voi negli alti piani? Il servo che il padrone si vuole ingraziare deve nascondere la verità, così non lo fa soffrire e nelle sue mani mantiene il potere. È il popolo, governatore, che sotto sta. E più sotto se ne andrà. Beh, lei non si può mica accontentare tutti, beh. Te, rispondi, per un miliardo, mangiavi un panino con la merda o sparavi ad una persona? Figli moi, state attenti, gli apre tocchi. Tio, a fare bel rischio la pelle. Sinta mamma, te state attenti, gli apre tocchi. Se il signore ricco ci voleva, povero non ci avesse fatto. Che a chi Dio vuole bene, manda le sue pene. Mamma. Mamma, so quello che pensate di me. Soprattutto papà. Per mano mia un sacco di madri come te stanno ancora piangendo un figlio scomparso, da noi trucidato, massacrato senza pietà. E io non sono un assassino, però. Io sono un uomo, mamma. Diverso, forse, da tutti questi che vivono con la testa stretta in mezzo alle gambe fino all'ultimo giorno della loro vita. E vanno avanti così, chiusi, rassegnati alla propria desolazione, abbandonati al proprio destino, e trascorrono ora dopo ora come se non fossero mai nati o come se non dovessero morire mai. Io non sono così. E per non fare tutto quello che ho fatto, avrei dovuto spararmi alla pancia. In queste viscere, mamma, si è annidata quella serpe che ingiustizia dopo ingiustizia è diventata sempre più grande. È nata per te, è cresciuta per Caterina e si è svegliata per la fame, per la libertà. Forse, per un uomo come me, sarebbe stato meglio nascere cieco. I miei occhi, mamma, sono gran parte della mia sofferenza. Non hanno mai fatto finta di non vedere. Anzi, se le andavano a pescare le ingiustizie. E ad ogni faccia magra e tristissima che incontravo, ne appiccicavano sopra una ricca e sorridente, stuzzicando fino alla morte quel serpente infernale che ancora oggi io mi porto dentro. Non sono un assassino, credetemi. È che in un paese dove il bene già è poco, e quel poco, chi ce l'ha, preferisce tenerlo stretto a sé, anche a scapito di suo fratello. Io, in un paese così, non voglio più fare finta di niente.